Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. L'evasione impossibile di Sant'Notar Nicola, parte quarta. Arrivai a Biella, anzi nel biellese, con la prospettiva di fare il fioraio ambulante. Non era granché, ma almeno sarei stato con mia madre, che intanto si era sistemata accossato. Portai con me la mia valigia di cartone. Non ero riuscito a comprarmene una nuova e una maggior carica di rivolta. Non era facile lasciare Torino, lasciare la città che avevo cominciato ad amare. Non era facile lasciare la vecchia barriera, i compagni, gli amici, il circolo, la ragazzina. Ma al solito ci sono poche scelte per i giovani della mia età. Tocca andare dove capita, dove si può. Le condizioni materiali dell'esistenza determinano in modo quasi esclusivo le scelte che l'individuo compie, anche sul piano dei sentimenti. Si ama una persona, un luogo, un modo di vivere, e lo si deve piaccia o non lasciare, e nel cuore resta il rammarico, la nostalgia, la rabbia. D'accossato partivo per i mercati col furgoncino Ape, carico di fiori. Era una vita un po' irregolare. Ci stavo poco in paese, non riuscivo a legarmi ad altri. Il giorno del mercato andavo a Biella e ne approfittavo per fare una scappata alla sede della FIGC. Conobbi Fortunato, il segretario provinciale, un compagno con capacità notevoli. Finché fu lui a dirigere la FIGC di Biella, questa visse gli ultimi sprazzi di grandezza, anche se saltuariamente dunque mantenevo i contatti col partito e cominciavo a conoscerne alcuni attivisti e dirigenti. Dopo un po' andai ad abitare a Pettinengo, dove aprimmo un negozietto di fiori, e qui le cose cambiarono. Cominciai a recarmi a Biella ogni pomeriggio, stavo a gironzolare per gli uffici della federazione, parlavo spesso con i compagni delle fabbriche tessili, membri della commissione interna, ragazzi e ragazze delle vicine sezioni, col compagno Ottino, vecchio partigiano, e col compagno Costa, che era dei più pazienti. Presto cominciarono a darmi qualche piccolo incarico. Visto che hai tempo, siediti a quel tavolo a scrivere quelle circolari. Quando puoi, vai a portare questi manifesti alla tale fabbrica. Stasera ci sarebbe da tenere una riunione di giovani di... Nonostante tutto fosse molto diverso da Torino, a poco cominciavo ad abituarmi. Mi ero legato a un bel gruppo di giovani. Parte erano compagni, altri piuttosto degli sbandati. Era il tempo in cui si cominciavano a perdere orientamenti e prospettive. La confusione nel partito si rifletteva sui giovani. La volontà di ribellione cominciava a infrangersi contro l'ottusità dei burocrati. La stampa baldracca dei borghesi parlava di Teddy Boys, di teppisti, e non capiva niente, come non capiva niente il partito. I giovani cercavano un partito che li portasse alla rivoluzione, invece trovavano solo riunioni di cellula o festival dell'unità. Era un po' poco per l'entusiasmo che animava i migliori, o anche solo per le confuse speranze degli altri. Così finivano magari per sprecarsi in stupidi atti di violenza o in un generico rifiuto della disciplina di fabbrica. Qualcuno anche nel teppismo e nella illegalità comune. Per un po' di tempo anch'io mi aggregai a uno di questi gruppi. Si girava in moto di paese in paese, si attaccava lite, si caricavano le ragazze, ma questa vita per me durò poco. Volevo cercare di portare questi giovani alla lotta politica organizzata, ma non era facile. Il partito se ne disinteressava, chiuso nella sua campagna di tesseramento e di diffusione dell'unità. Alla fine tutto si risolse in un fallimento. I compagni della federazione mi fecero fare l'autocritica. Mollai quei ragazzi al loro destino e andai avanti verso il mio. Probabilmente fu un errore, uno dei tanti errori del partito, un eccesso di perbenismo. Forse la paura delle critiche dei borghesi è molto più facile accettare la mentalità borghese che combatterla. Anche sui problemi secondari. In quel periodo i compagni della federazione mi invitarono a frequentare la palestra WISP della Camera del Lavoro. Era l'inverno 1957. In questa palestra veniva un folto gruppo di giovani a fare atletica leggera, operai e qualche studente. L'intenzione era di interessarli alla FIGC e farmeli amici, prima e compagni poi. Dovetti indossare la tuta e fare ginnastica con loro. La cosa finì per piacermi tanto che cominciai a impegnarmi e a gareggiare con buoni risultati. Le domeniche alcuni circoli organizzavano delle riunioni di atletica nei paesi o città vicine e le medaglie vinte si accumularono finché venne il 1 maggio 1958. Il comune di Cossano organizzò una gara importante. Mi preparai bene. Ci tenevo a fare bella figura, anche perché ero conosciuto per averci abitato tempo prima. Vinsi con più fatica del solito. Prima dell'inizio si iscrisse un atleta della categoria superiore, come fuori gara. Disse che avrebbe gareggiato per allenarsi. In atletica succede spesso. La cosa non mi garbava molto. Infatti mi tallonò per tutto il percorso e vinse facilmente la volata, dimostrando scarso senso sportivo. La gara era mia, ma mi aveva tolto la soddisfazione di tagliare il filo di lana posto sul traguardo. Ero stesso sul prato a riprendere fiato, quando si avvicinò un compagno. «Bravo, abbiamo guadagnato un atleta in più, però ho l'impressione che ti abbiano perso come attivista». «Sta tranquillo», risposi. «È stata l'ultima gara questa». Avevo ragione. In federazione passavo solo di rado a cercare qualche compagno a prendere accorti per le gare, oppure lunedì mattina ad aspettare le prime copie del nostro giornale, Baita, e leggere l'articolo che riguardava la gara del giorno prima. Poi sparivo per il lavoro e la sera sempre in palestra o allo stadio. Essendo piccolo di statura e avendo la falcata corta, dovevo faticare più degli altri negli allenamenti per ottenere un buon rendimento. Capii che mi lasciavano fare perché mi staccassi completamente dal gruppo di sbandati che tempo prima avevo preso a frequentare. Ormai ero recuperato e mi sollecitavano a impegnarmi di più. Fu un po' come rientrare nei ranghi e in parte ne ero contento. Un giorno si svolse un grande attivo del partito a Biella. Da tutta la zona erano arrivati i compagni delle sezioni e delle fabbriche, i giovani e gli anziani. Parlai anch'io, facendo il mio bravo intervento. Chiesi ai compagni anziani di aiutarci, di fare almeno iscrivere i loro figli. Applausi, consensi e poi tutto restava come prima. Finii col diventare il dirigente della FIGC di Biella. Provai la durezza e le delusioni del rivoluzionario di professione. Del funzionario. Soldi pochi e tanti incarichi, riunioni, diffusione di volantini, feste, scioperi, eccetera. Ma in fondo tutto si riduceva a un lavoro di routine. Era facile correre il rischio di scivolare nel burocratismo, nell'abitudine, e sentivo acutamente il contrasto tra la realtà presente e i sogni che avevano esaltato la giovinezza mia e di tanti altri. Ogni angolo, ogni valle, ogni ponte in quei luoghi evocavano scene di lotta partigiana. Il nome di Gemisto, in esilio perché condannato all'ergastolo, era continuamente evocato dai compagni di lotta. Ogni paese, ogni fabbrica ricordava la nascita del primo movimento operaio. Se ero diventato funzionario, non era certo per i miei meriti politici o per la mia conoscenza del marxismo. Restavo quel che ero, un ragazzo con poca cultura, tanta buona volontà, tanto desiderio di essere utile e basta. Forse, insistendo, sarei passato di grado, avrei migliorato la mia preparazione, a poco sarei potuto diventare un piccolo dirigente di base, ma quella non era la mia strada. L'obbedienza passiva a dei burocrati non era il mio pane. A ogni buon conto non mi mancavano entusiasmo e buona volontà. Nonostante tutto, il partito era l'unica via attraverso cui si poteva procedere, anche se lentamente. Ero ancora convinto che al di fuori del partito ci fosse il tradimento. Ero ambivio. La linea del partito e il tipo di attività politica che ero costretto a svolgere erano insoddisfacenti, ma dall'altra parte c'era l'ignoto o addirittura il vuoto. Fu solo nei primi mesi del 59 che cominciai a prendere delle decisioni che avrebbero dovuto col tempo diventare definitive. Ogni tanto venivo a Torino, in barriera, passavo a trovare gli zii, gli amici, facevo una scappata in sezione o in federazione. In barriera, tra i vecchi amici, gli umori erano sempre più neri. A Torino la situazione era peggiorata, il riflusso rivoluzionario continuava opprimente. Con Piero mi ero sempre tenuto in contatto, anche se saltuariamente. I discorsi erano sempre i soliti, la critica alla linea del partito e all'imborghesimento dei dirigenti. Ai primi di gennaio rividi anche Danilo, con Piero, in bottega. Ora lavorava con l'amico impresario. Era stato parecchio in giro, a seguire lavori, case, autostrade. Riprendemmo i vecchi argomenti. C'erano parecchi compagni quel giorno. Si parlò molto del confronto fra noi e i cubani e gli algerini. Tutto ciò che riguardava la lotta del proletariato nel mondo ci interessava, ci esaltava. Qualcuno disse che sarebbe stato giusto che anche noi ci preparassimo, che bisognava anticipare i tempi. Per la prima volta sentii parlare di certi anarchici, di quelli che credevano nell'attentato o nella propaganda del fatto. Sentii parlare di Barnot, di Jacob, di Bresci. In Italia le masse non erano pronte? Mancava un'organizzazione rivoluzionaria? Perché non passare all'azione? Questi gli interrogativi che si ponevano Piero e gli altri. Tutto però a livello teorico, naturalmente. Ci si chiedeva solo se era giusto o no, non ci si poneva il problema concreto di chi avrebbe dovuto agire. Tornai a Biella rimuginando tutti quei discorsi. Ero piuttosto scosso. Nel successivo viaggio a Torino ripresi la discussione con Piero. Durò tutta la sera. Mi chiese se a Biella conoscevo qualcuno che avesse armi o che sapesse usarle, qualche giovane deciso. Non si sa mai, potremmo avere bisogno. Risposi di no. Certo, conoscevo molti compagni, ma ormai ero limitato dall'attività del partito, alla solita cerchia dei burocrati. Tutto si esauriva nell'escogitare nuove forme per rastrellare soldi nelle sottoscrizioni o nelle campagne di tesseramento o nelle feste dell'unità. Cominciavo a fantasticare per conto mio che forse riuscire a fare qualcosa e smuovere le acque non sarebbe stato male. Qualche tempo dopo venni a Torino con una riunione regionale. La sera stessa andai in sezione a salutare i compagni. C'erano anche Piero e Danilo. Questi aveva saputo che Ambrino voleva organizzare una riunione dei suoi vecchi partigiani e perciò era venuto in sezione per accordarsi con lui. A un certo momento, non so come, iniziò una discussione accanita tra Danilo, Piero e gli altri, da una parte e i dirigenti della sezione dall'altra. Fu una serata memorabile e non mancarono le invettive e gli attacchi personali, ma sul piano della logica i dirigenti ebbero la peggio, furono demoliti. L'unico argomento a cui si attaccarono fu la disciplina di partito, il centralismo democratico. Tutte formule vuote che riuscirono a malapena a nascondere il loro imbarazzo e le loro paure, sotto le apparenti argomentazioni razionali. In realtà era evidente che questi compagni avevano già dentro di loro deciso di non rischiare più, di non battersi più, e mascheravano questa paura parlando della situazione sfavorevole della via italiana al socialismo. Vidi la loro paura negli occhi quando Danilo li attaccò su questo terreno. A un certo momento intervenni anch'io e mi schierai decisamente con i rivoluzionari. Troppe cose erano oscure, inspiegabili, nella continua ritirata del PC di fronte all'avversario di classe. Portai con me a Biella l'amarezza accumulata quella sera. Tentai di riprendere il discorso con qualche compagno funzionario. Immediatamente lo vidi irrigidirsi. «Sono tutti uguali», pensai. Ne parlai con qualche compagno di base. La pensavano come me. Erano scontenti, disorientati, ma anche in loro tutto si fermava alla critica. Nessuna alternativa concreta emergeva dalle loro parole. Era vero. Sul piano politico non esistevano alternative al PC, o si rimaneva nel partito o si finiva isolati nell'impossibilità di fare qualsiasi lotta. Continuai a macinare dentro di me senza trovare soluzione. Tornai a Torino, volevo sfogarmi con qualcuno che capisse. Andai in bottega da Piero. Adriano non c'era più da parecchio tempo, si era trovato un posto in fabbrica. In bottega c'era un vecchio anarchico, intagliatore in legno, una figura tipica e interessante, coi suoi ragionamenti. Era sempre pronto a mettere in luce con tagliente precisione le magagne della linea democraticistica. Veniva sempre in bottega anche Pierino, il tranviere, un compagno che conoscevo da anni, legato al partito, ma pieno di impazienza e di spirito combattivo. Era uno di quelli che sognavano ogni giorno di poter fare la rivoluzione, fanatico degli algerini e dei cubani. Tempo prima una banda aveva rapinato le buste paga del deposito Tortona, dove lavorava il nostro compagno. Ne era rimasto ammirato, continuava a ripetere: «Quella è gente in gamba. Anche noi dovremmo fare così, prendere i soldi dove ci sono e finanziare la rivoluzione». Quel giorno era anche lui da Piero. Ci mettemmo a parlare di tanti problemi. Alla fine si arrivò persino a discutere se non sarebbe stato giusto uscire dalla legalità. Decidemmo di parlare con altri compagni, così da un punto di vista puramente teorico. Ci trovammo con Danilo e altri la sera stessa alla 35esima sezione in Borgo Monterosa e fu un grave errore. Per anni ne avremmo subito le conseguenze. Da principio la chiacchierata fu obiettiva e su un tono distaccato. Poi intervenne un compagno della federazione. Si arrivò quasi alla lite. Ci dettero dei provocatori. Qualcuno disse che eravamo dei parolai, che le nostre erano solo chiacchiere, che in realtà il nemico era troppo forte, imbattibile militarmente e che se proprio eravamo convinti delle nostre idee, cominciassimo pure noi a fare la rivoluzione. Alla fine ci imposero di smetterla, altrimenti ci avrebbero sbattuti fuori e denunciati alla federazione come provocatori. Fu la rottura, ce ne andammo. Prima di lasciarci Piero mi disse: «Vieni domani in bottega». Il giorno dopo ci trovammo, c'era pure Danilo. Commentammo i fatti della sera precedente. Dissero che era ora di fare qualcosa di serio. «Ci hanno veramente scoglionati», disse Danilo. «Adesso basta con le loro menate, basta prendere ordini da un gruppo di burocrati invigliacchiti. E che vogliamo fare noi? Fondare un partito? Per carità, non è neppure pensabile, ma qualche azione dimostrativa, qualcosa alla nostra portata potremmo farla. È possibile escogitare qualcosa», disse Piero. Ci lasciammo con l'intesa che ci avremmo pensato su e dopo una settimana ci trovammo al circolo ricreativo delle case popolari, dove abitava Piero. C'erano anche due o tre compagni che conoscevo soltanto di vista. Il discorso venne preso un po' alla larga. La situazione politica generale, l'atteggiamento del PC, l'impossibilità di modificarlo dall'interno. Eravamo in una stanza appartata, si poteva parlare liberamente. Piero parlò in modo appassionato, rese palpabile il senso di oppressione, di disorientamento che ci pesava addosso, in quegli anni oscuri per la lotta rivoluzionaria. Ci ricordò come stessero crollando intorno a noi tante speranze, sogni, miti, come invece in lontani paesi eroici, combattenti tenessero alta la bandiera della guerriglia. In Italia invece la rivoluzione era rinviata a Torino. Scioperavano in certi stabilimenti, 100 operai su 10.000. Il SIDA imperversava nella sua opera di corruzione e cromiraggio. Ci furono diverse proposte, ma tutte piuttosto teoriche. Danilo mise sul tappeto i problemi pratici, senza però sbottonarsi troppo. Capì dopo che voleva compiere un sondaggio sull'elemento umano, ma aveva già in testa un piano preciso. Disse che evidentemente gli obiettivi dovevano essere modesti, almeno all'inizio. Non si poteva fare né guerriglia né sabotaggio, tantomeno creare un movimento di massa. Tutto doveva essere ristretto e clandestino. Agli inizi sarebbe stato più un problema di coscienza, una soluzione personale che altro. Un liberare se stessi nell'azione per non sentirsi in colpa. Citò una frase di Cafiero: la peggiore infamia è l'inazione. Praticamente pensava alla costituzione di una specie di GAP con compiti molto vaghi per i primi tempi. Rimise anzi sul tappeto la questione delle armi. Il primo obiettivo avrebbe dovuto essere quello di reperire armi, di rimetterle in efficienza e di accumularne una certa quantità. Fatto questo, si sarebbe visto in che modo usarle. Quelle armi dal 45 o dal luglio 1948 marcivano in vecchie baite. Ogni giorno i carabinieri ne scoprivano qualche deposito. La paura, la stanchezza inducevano vecchi partigiani a mollare tutto. Alcuni ricorrevano alla lettera anonima per liberarsene. Fui subito d'accordo, anzi proposi che si tenessero subito dei corsi di addestramento per i giovani come me. L'idea mi attirava moltissimo. Più o meno tutti fummo d'accordo con il progetto di Danilo. Era una soluzione che poteva darci un appagamento, farci sentire impegnati, senza tuttavia esporci troppo in azioni che esigevano la violenza diretta. Veramente ormai io ero piuttosto entusiasmato e proposi di compiere, dopo esserci addestrati un pochino, un'azione punitiva alla sede dell'Unione Industriale. Niente sangue, naturalmente. Bastava entrare, quando erano in riunione, metterli faccia al muro, dargli un po' di botte, magari poi sparare qualche raffica sulle loro teste, giusto per farli un po' cagare e anche per fargli capire che era meglio essere più morbidi nelle trattative con gli operai. Se loro, i padroni, avevano una polizia che li difendeva coi manganelli, anche gli operai avevano qualcuno che poteva rendere la pariglia. Danilo frenò il mio slancio. «Va bene, idee ottime, ma premature», parlò Piero, tirando le conclusioni. Disse che loro due avrebbero cominciato a trovare armi. Era meglio che le cose fossero fatte con la massima discrezione. Intanto, disse, era meglio andare avanti sul piano della discussione, saggiare quali fossero i compagni più rivoluzionari. Concluse Danilo: «Abbiamo fatto bene a discutere di queste cose, ma per ora limitiamoci a quanto abbiamo deciso. Poi vedremo». Finita la riunione, Danilo fece salire Piero e me in macchina. Gli altri se ne andarono per conto loro. «Hai da fare?» «No. Vieni con noi, facciamo un giretto». «Benissimo». Piero cominciò a parlare della riunione. Mi spiegò perché si erano tenuti un po' sul vago. «Vedi, ci siamo rotti le balle con i padroni e col PC. Ormai abbiamo deciso di agire. La riunione era solo un pretesto per vedere chi dovevamo scegliere per aiutarci. Tu hai dimostrato di essere il migliore, il più entusiasta, se non altro per ora. E poi ti conosciamo bene. Se ci stai, ottimo. Se non ci stai, come non detto, di te ci fidiamo». Eravamo in campagna, in una zona deserta. Danilo portò l'auto in una strada campestre. Arrivammo a una cascina semidiroccata. Fermò, aprì il bagagliaio e tirò fuori una borsa. C'era un mitra tedesco. Lo montarono e spararono alcune raffiche. Poi fecero sparare anche me. Fu un'esperienza emozionante, unica. All'inizio mi trovai un po' impacciato, poi cominciai a sentirmi sicuro. Il mitra non dava rinculo, era pesante ma maneggevole. Tirai qualche raffica contro il muro a casaccio, poi cominciai a mirare. Avevamo fatto una specie di sagoma con un asse e un pezzo di cartone. I colpi andavano a segno. Pensa se quello fosse Agnelli o Valletta, diceva Nanilo, oppure un bastardo fascista o Scelba o uno sbirro, rincarò Piero. Dai, dai, tiragli dentro a sti porci. L'immaginazione lavorava, era esaltante. Mi vedevo colpire in una sola volta tutti i nemici della mia classe, tutti quelli che avevo imparato a odiare, quelli che usano sempre la loro violenza contro di noi, violenza che è presente ovunque, sempre, da quando si nasce a quando si muore. Tutta questa violenza che loro, i padroni, i poliziotti, i ricchi, avevano coltivato dentro di me con le loro ingiustizie, con la loro oppressione, ora trovava modo di esprimersi, di rivelarsi, di scaricarsi, mentre scaricavo il mitra contro quell'inerte bersaglio. Finirono i colpi, mi sentivo turbato, capivo che era stato un gioco, ma un gioco pericoloso. Rimasi muto, immobile, col mitra a scarico in mano. Quando cominciamo a usarlo? Era un invito a Danilo perché parlasse. Agli altri rispose: non diremo più niente per ora. Li chiameremo se sarà il caso. Noi abbiamo un progetto, subito. Sono in contatto con i ribelli algerini. Hanno bisogno di armi. Noi le troviamo e gliele facciamo arrivare. Ma, obiettai, le armi costano. Abbiamo pensato anche a questo. Ce ne siamo accorti che costano. Ho ben visto. Sti figli di puttana piuttosto le gettano via. Ma se si tratta di dare qualcosa, allora vogliono la grana. «I soldi li prendiamo ai padroni, di brutto», concluse Danilo. «E come?» replicai. «Ma ci sono tanti modi, basta avere un po' di coraggio e di buona volontà». Dopo alcune battute lasciarono cadere l'argomento. Rimasi sconcertato per alcuni giorni. Decidemmo di parlarne ancora. Mi accorsi che Piero non aveva progetti precisi, più che altro era alla ricerca di una soluzione. Era convinto della giustezza del fine in sé, ma non si era posto concretamente il problema di come raggiungerlo. Danilo invece doveva già avere qualcosa in mente. Lo capì dalle allusioni che faceva e dal suo senso di sicurezza. Probabilmente però seguiva il metodo di scoprirsi solo all'ultimo momento. Un conto è parlare di iniziative generiche, un conto dare indicazioni precise. Questa era una caratteristica di Danilo, per antica abitudine acquisite nella lotta clandestina. Il giorno in cui ero a casa sua mi aveva fatto vedere la finestra da cui era saltato quando erano venuti i fascisti a prenderlo. Era sceso dalla valle di Susa per venire a trovare sua madre di nascosto, in via San Donato. Aveva trovato un amico. Bastò. Un'ora dopo i fascisti piombavano nel cortile. Per fortuna stava al primo piano. Dietro la casa scorreva un canale. Danilo ci si buttò squagliandosela per un pelo. Di questa esperienza aveva fatto tesoro. Non fidarsi mai se non dopo attente verifiche. Per molti giorni pensieri contraddittori mi resero inquieto, teso. Momenti di euforia si alternavano a timori e a presentimenti drammatici. Tutto appariva così confuso. In quel periodo sentii la mancanza di mio padre. Ero solo a dover decidere. Decisi di avere un colloquio con Piero. Eravamo così in confidenza che da soli sarebbe stato più facile spiegarci. Piero stesso mi confessò che, sia pure su un piano diverso, provava gli stessi sentimenti. Però ormai ha deciso, in un modo o nell'altro dobbiamo agire. Aspettiamo solo che Danilo si sbottoni. Un piano deve averlo già, lo dirà solo se saremo decisi a seguirlo. D'altro canto, continuò, non abbiamo scelte. Io non saprei né dove andare né come fare. In questo concordavo con lui. Insomma, si trattava di concludere, o sì o no. In quel momento mi sembrò sciocco tirarmi indietro e risposi che era bene sentire Danilo. Lo trovammo la sera stessa. Piero lo invitò a vuotare il sacco. Io ci sto a tutto, ormai ho fatto la mia scelta. Dimmi solo esattamente cosa c'è da fare. Per Sante garantisco io, verrà con noi e se ciò non fosse non parlerà di sicuro. Lo conosco troppo bene. D'accordo. Allora, ragazzi, possiamo cominciare. Per prima cosa attaccheremo la Fiat. Libri ribelli. comunicare col mondo facendo a pezzi bambini che io so e ha ridotto già vecchi libri ribelli.